La versione di Oscar. Di Oscar Giannino. Buon pomeriggio, cari ascoltatori di Aldo 24, 16:30 primi, 56 secondi. Grazie al fatto che è finito lo sciopero che ha bloccato stamattina a Milano i trasporti pubblici. Complimentoni ai sindacati che lo hanno fatto nel pieno della settimana di massimo picco annuale per Milano di attrattività dall'estero, perché c'è la coincidenza della fiera del mobile della Design Week, della settimana del design. C'era la città leggermente perplessa di fronte alla decisione di uno sciopero di questo tipo, ma capita in Italia, lo sappiamo, noi ci siamo abituati, chi viene da fuori forse però può essere che capiti che ragioni gli non torna. Ma detto questo, grazie per l'ascolto come sempre diretto in podcast. Vi ricordo l'indirizzo, la versione di Oscar, @radio24.it. Se volete intervenire oggi, come sempre, il numero è 800240024. Vi dico subito che l'argomento della puntata è immigrati, ma non in generale, non parliamo delle polemiche politiche, parliamo invece di un set di dati che vale la pena di ascoltare da parte di chi li ha elaborati, perché porta a delle riflessioni utili. Io voglio rispettare l'opinione di chiunque in ascolto, tra chi pensa che bisogna sparare nel Mediterraneo, chi pensa che bisogna buttarli in acqua o lasciare... Ma in questo momento non sto parlando di questo, ma sto parlando del fatto che 3 giorni fa, con mio grande applauso, io sono torinese quindi sono viziato a un pregiudizio forse favorevole, sulla stampa di Torino il 2 di aprile c'erano 2 belle pagine che hanno attirato la mia attenzione, perché ovviamente erano giornalisticamente ben confezionate con titoli sommari tali da far sussultare molti luoghi comuni. E però oltre all'interpretazione giornalistica c'era il riferimento a uno studio. Quali erano alcuni di quei sommari e titoli che mi avevano attirato? Ve lo dico subito, così sobbalzate anche voi magari, o molti di voi. L'occupazione straniera non ha legami con i salari bassi, accettano professioni umili, sono flessibili, non rubano il posto a nessuno, che è un classico argomento invece dell'Italia degli anni di crisi, e il fatto che non spingano al ribasso oltretutto i salari è un altro dito nell'occhio a chi invece è assolutamente convinto del contrario. Dopodiché in questi anni noi abbiamo rarefatto praticamente i nuovi permessi di soggiorno, quelli da stabilire anno per anno in legge rispetto alle esigenze stimate del mercato del lavoro, e mentre da una parte ai più è sempre sembrato naturale con quello che succedeva da una parte con l'avanzare degli disoccupati e degli inattivi nel nostro paese già residente, dall'altra, rispetto al fatto che in Italia aumentava drasticamente il numero di approdi e di immigrati, ebbene, anche questo invece si scopre in questo articolo e nello studio, che è un gravissimo errore, perché ha contribuito in maniera molto rilevante dal punto di vista quantitativo a far trasferire dal settore del lavoro legale al settore del lavoro clandestino immigrati che in realtà lavoravano già emersi in Italia prima. Quindi una serie di segnali, come vedete, che sembrano sfidare una quantità di luoghi comuni sull'immigrazione molto forti. Lo spunto per le 2 pagine sono le risultanze a cui arriva una ricerca di 3 studiosi, cioè di Edoardo Di Porto dell'Università Federico II di Napoli, di Enrica Maria Martino del Collegio Carlo Alberto di Torino, poco fuori di Torino, Moncalieri, e Paolo Naticchioni dell'Università Roma III. Uno studio che è stato possibile realizzare grazie al fatto che l'INPS, sotto la gestione del presidente Tito Boeri, rende accessibile, appunto con delle borse, anche si chiamano borse Visit INPS, il dataset, la quantità numerosissima di dati che l'istituto ha a disposizione, e li consegna ai ricercatori. E quindi la ricerca si è posto il problema di esaminare che cosa era avvenuto di 227.000 lavoratori che erano emersi grazie alla sanatoria dell'immigrazione clandestina che fu adottata dal secondo governo Berlusconi, quella che regolarizzò 650.000 persone. Poi noi abbiamo avuto negli anni successivi 2 sanatorie con numeri comunque consistenti, ma in discesa. L'abbiamo avuto nel 2009 con 222.000 richieste accolte, e nel 2012, in cui ne furono accolte solo 60.000, dopodiché doveva essere regolarizzato con il decreto dei flussi annuali, che sono andati praticamente ad azzerarsi, come dicevo prima. Questo per capire perché ha fatto bene, secondo me, la stampa a occuparcene, e perché abbiamo scelto appunto i due ospiti a cui, limitandomi solo a fare delle banali domande, demando la funzione di spiegarvi meglio la ricerca, le sue conclusioni e come va letta. Quindi sono con noi, e io li ringrazio per il tempo che ci dedicano, Alessandro Barbera della Stampa, l'autore dell'articolo. Buon pomeriggio e grazie, Alessandro. Buonasera, ciao Oscar. È uno dei tre ricercatori, anzi la ricercatrice, cioè Enrica Maria Martino, del Collegio Carlo Alberto di Torino. Buon pomeriggio, Enrica. Buon pomeriggio. Allora, io partirei da lei. Che cosa vuol dire, spiegando il campione su cui avete fatto la vostra ricerca, che l'occupazione straniera non ha legami con i salari bassi e non è quindi, come viene dipinta, un concorrente al ribasso sia per le qualifiche che per le retribuzioni? Sì, allora innanzitutto la ricchezza della ricerca che abbiamo potuto condurre, come stava spiegando prima, è il fatto che possiamo osservare non un campione di immigrati, ma l'intera popolazione dei lavoratori nel settore privato, grazie appunto ai dati dell'INPS. Per cui quello su cui ci siamo focalizzati in questa prima fase è guardare i lavoratori extracomunitari che sono emersi grazie alla legge Bossi-Fini. Quello che possiamo dunque dire al momento è che regolarizzare dei lavoratori già presenti sul territorio italiano, ma che lavorano nel settore sommerso, non ha un effetto negativo sull'occupazione degli italiani. Questo l'abbiamo potuto vedere a diversi livelli, innanzitutto a livello di impresa, quindi le imprese che decidono di beneficiare della regolarizzazione non lo fanno piazzando dei lavoratori italiani, bensì scelgono di far emergere il lavoratore extracomunitario che avevano impiegato in un primo momento in nero, senza che questo abbia ripercussioni negative sugli altri occupati nell'impresa. In aggiunta a questo, non troviamo risultati negativi, effetti negativi dell'emersione di questi lavoratori neanche a livello territoriale. Questo a fronte del fatto che questi lavoratori, una volta che sono emersi, non hanno un rischio superiore rispetto ad altri stranieri di rientrare nel settore sommerso. Una volta che infatti gli viene data la possibilità di essere impiegati formalmente, i dati suggeriscono che restino poi nel settore formale, per cui continuiamo ad osservarli occupati formalmente negli anni successivi ad un tasso molto alto. In particolare, intorno all'80% di loro è ancora occupato nel settore privato a 5 anni dalla regolarizzazione. Quindi questo è un segnale piuttosto incoraggiante rispetto all'efficacia di una misura di regolarizzazione nel contrastare il lavoro sommerso. Ma questo fenomeno della persistenza dell'immigrato regolarizzato, cioè esattamente l'ultimo concetto che richiamava mentre stava parlando, siccome voi avete esaminato negli anni successivi appunto questa coorte molto ampia che era emersa dal lavoro nero al lavoro regolare, quanto alla mobilità con cui risponde magari alle crisi dell'impresa che li aveva regolarizzati o al variare della domanda negli anni poi successivi, poi arrivata la crisi eccetera eccetera, presenta dei caratteri radicalmente diversi rispetto a quello del lavoratore occupato per età di qualifica e di retribuzione italiana, oppure no? Beh, quello che osserviamo è che a parità di qualifica, di settore e anche di provincia nella quale il lavoratore emerge, senza dubbio il lavoratore extracomunitario ha una mobilità sia a livello aziendale che a livello territoriale decisamente superiore rispetto a un lavoratore italiano. Per dire un numero, se la mobilità aziendale, quindi la probabilità di cambiare datore di lavoro per un italiano è intorno al 15%, anche qualcosa di meno, nei lavoratori che emergono dopo la Bossi-Fini vediamo un tasso addirittura del 55%, quindi questo dimostra una mobilità, una disponibilità a cambiare lavoro, a cambiare impresa decisamente più alta. Anche a livello di mobilità geografica questo dato, di nuovo, non così forte ma comunque confermato, perché vediamo che il 40% dei lavoratori che emergono cambiano provincia di lavoro nel giro dei primi 5 anni, e ovviamente anche per una serie di fattori legati a i legami che un lavoratore italiano può avere sul territorio e nella provincia in cui lavora è naturalmente più alta fra gli stranieri. Ma quanto invece la retribuzione? Lei lo sa benissimo che la convinzione è diffusa, mainstream, non sui dati, ma così dal punto di vista impressionistico, che con la regolarizzazione, da una parte l'azienda che beneficia della regolarizzazione, però con il lordo che deve pagare, abbassa la retribuzione rispetto al netto precedente e quindi l'abbassa anche rispetto all'italiano regolare su cui pagava il totale del lordo preesistente. Analizzando nel tempo, all'atto della regolarizzazione negli anni successivi, questo fenomeno di cui la gente è assolutamente convinta, si determina, non si determina, si determina all'inizio e poi si riassorbisce, come funziona dai dati INPS? Ma in realtà quello che osserviamo è che un effetto di riduzione dei salari per gli occupati italiani non sembra esserci. Sembra piuttosto che il lavoratore che viene regolarizzato entri nell'impresa con un salario più basso di quello che in genere del divario salariale che c'è normalmente nel mercato tra extracomunitari e lavoratori italiani, e senza che questo abbia nessun impatto su invece i salari dei lavoratori dipendenti già occupati in quell'impresa. Quindi nel breve periodo si vede una riduzione del salario medio pagato dell'impresa, dall'impresa, che però è totalmente determinato dal salario più basso con cui entra il lavoratore regolarizzato, mentre già dopo 9 mesi o un anno dalla regolarizzazione il salario medio dell'impresa ritorna ai livelli precedenti. Quindi i nostri dati sembrano contraddire questa impressione rispetto all'effetto di una regolarizzazione sui salari degli italiani. Naturalmente è un primo studio su una corte così ampia, questo statisticamente, quindi è l'obbligo anche del giornalista di ricordare a chi ci ascolta, c'è bisogno di riprodurre il più possibile su basi ancora più ampie nel tempo ricerche e indagini di questo tipo per vedere se le prime risultanze vengono verificate, però intanto ragioniamo di questa che c'è. Quanto invece all'argomento dell'effetto sostituzione rispetto all'offerta di manodopera italiana, voi siete andati a vedere nei settori in cui si concentrava per verificare se erano, come si dice spesso, lavori che gli italiani non facevano, oppure se invece ha ragione chi dice no, c'è un effetto sostituzione, questi sono posti di lavoro sottratti, per così dire, magari per via del fatto che alla regolarizzazione risultava anche voi che nel primo anno scende di un po' la retribuzione al regolarizzato, anche se poi ci ha appena detto si riassorbe nel tempo, però molti pensano, come si vede, all'impresa a quel punto conviene anche nel breve, quantomeno nel breve, pagare di meno. Questo effetto di sostituzione di offerta rispetto agli italiani dai vostri dati c'è, non c'è? Allora, quello che possiamo dire è che effettivamente i lavoratori extracomunitari emergono in settori che sono tipicamente a bassa qualifica, quindi emergono soprattutto nel settore delle costruzioni, della manifattura tessile e dei servizi alla persona, della ristorazione. E sono persistenti in questi settori, quindi la distribuzione dell'immigrazione tra settori è piuttosto stabile fin dal 2002, anche a guardare i dati di oggi, i settori in cui sono più presenti sono sempre quelli. Se questo comporta una sostituzione con i lavoratori italiani, dai nostri dati ancora non può emergere. Quello che possiamo dire è che il divario salariale tra immigrati e stranieri è costante, quindi il costo del lavoro di un lavoratore extracomunitario sembra essere più basso. Se questo ha un effetto spiazzamento rispetto ai lavoratori italiani, non si può dire con certezza. Anche studi precedenti non hanno dimostrato una relazione chiara e forte fra queste due variabili, quindi non c'è evidenza su questo punto ancora. Diciamo che c'è un sospetto di correlazione, ma non gli elementi per dire un rapporto di causazione. Esatto. Più o meno, ecco, esatto. Però intanto vi posso chiedere se nella filiera si faranno cose simili anche per le corti di quelli regolarizzati con le due grandi sanatorie successive, sia pur per numeri ridotti, ma comunque molto consistenti? Le risulta? Esatto, stiamo anche iniziando ad analizzare i dati degli emersi nel 2012. Purtroppo la regolarizzazione del 2009 riguardava solamente i lavoratori domestici. Sì, vero, vero, vero. Esatto, che quindi non è ancora non è presente nella base dati che abbiamo in questo momento a disposizione, per cui stiamo contando di ripetere la stessa analisi sul 2012 in modo da vedere se in condizioni del mercato del lavoro italiano piuttosto diverse rispetto a quelli del 2002, l'effetto sia stato paragonabile, anche se, come già ricordava, il successo del programma di regolarizzazione è stato piuttosto contenuto rispetto al programma del 2002, in parte anche per i requisiti che erano stati imposti ai datori di lavoro, che dovevano dimostrare un reddito più alto di 30.000 euro, e mentre noi abbiamo visto che a fare emersione, a fare regolarizzazione nel 2002 sono state soprattutto imprese piccole, quindi probabilmente il requisito reddituale ha scoraggiato in parte il successo della regolarizzazione. Allora, io intanto ringrazio Enrica Maria Martino, che insieme a altri due ricercatori è l'autrice di questa, che a oggi è la più vasta ricerca, numeri alla mano, dell'INPS su cosa è successo a una corte molto ampia di immigrati regolarizzati, per sostituire cifre, indicatori precisi rispetto alle impressioni su cui invece veleggia e domina il dibattito pubblico. Dopo il minuto dedicato al traffico, con Alessandro Barbera andiamo invece sul punto: perché queste conclusioni dell'articolo della Stampa sul fatto che i decreti annuali, andando verso l'azzeramento, hanno creato problemi, visto che agli occhi di tutti è scontato ed è giusto che invece andassero verso l'azzoramento, vista le condizioni del mercato del lavoro degli italiani, anzi di tutti i residenti, compresi gli immigrati, al lavoro nel nostro paese. Tra un minuto. Per il tuo vino scegli il meglio. Colombin, tappi in sughero, fidati di un esperto. Vi presenta la versione di Oscar. Allora, avete sentito da una delle tre autrici le conclusioni a cui giunge questo primo studio su un campione amplissimo di immigrati regolarizzati, e in quella che fu col governo Berlusconi II la più grande regolarizzazione di immigrati delle tre maggiori avvenute dopo il 2002 nel nostro paese. E però, oltre a quelle conclusioni, che lo vedo dalle vostre reazioni, molte non sono molto disponibili ad accogliere, però intanto questo è uno studio fatto seriamente, nell'articolo della Stampa Alessandro Barbera a un certo punto si virava dicendo ho capito, ma noi stiamo anche commettendo un altro errore. Quelli precedenti erano di interpretazione dei fatti, visto che non avevamo la base statistica, ma poi l'errore invece, quello politico, è di aver praticamente azzerato la cifra annuale di permessi di lavoro, perché questa cosa, che ai più appare sacrosanta, in realtà è diventata un meccanismo di alimentazione di clandestini. Come e perché questa conclusione così paradossale, Alessandro Barbera? Ma certamente il calo, diciamo, dei permessi regolari è dipeso dall'andamento della crisi, cioè l'aumentare della crisi al emergere di una crisi economica che dal 2008 è stata pesantissima. Ovviamente chi governa se ne guarda bene dall'alimentare problemi ulteriori aumentando il flusso degli immigrati. Naturalmente però questo è un errore sotto il punto di vista, cioè posto che in una fase di crisi si possa ridurre complessivamente il numero di accessi, il problema è che nel frattempo il numero di persone che sono sbarcate in Italia è cresciuto esponenzialmente. Questo è il vero paradosso. Cioè, per avere un'idea, l'anno scorso in Italia sono sbarcate 180.000 persone, circa 20 volte il numero di persone che era sbarcato 20 anni prima, nel 2007. Di fronte a questo tipo di evidenza occorre una riflessione seria, ma molto pragmatica, perché come dimostra lo studio, il numero degli immigrati, gli immigrati in quanto tali tendono a coprire un fabbisogno di manodopera che non viene coperto dagli italiani. Enrica è stata molto seria e precisa nel non vedere una correlazione statistica, ma la correlazione logica è evidente: se quegli immigrati regolari non abbassano le retribuzioni, allora in nome di cosa dovrebbero rubare lavoro agli italiani? Dovremmo stabilire o arrivare alla conclusione che gli immigrati sono normalmente dei lavoratori più seri degli italiani. Penso che la logica ci impedisca di farlo. Esatto. Ciò detto, c'è un problema anche di natura economica, gli immigrati non solo migliorano la qualità della demografia, ma pagano contributi. Secondo i calcoli sempre dell'INPS, gli immigrati contribuiscono con un saldo di circa, per il momento, di almeno 2 miliardi, tra i 2 e i 5 miliardi al bilancio dell'INPS, E non solo si tratta di persone che un giorno avranno una pensione e quindi, diciamo, come dire, riavranno indietro i soldi che stanno dando all'INPS, ma in molti casi, molti immigrati che poi sono rientrati nei propri paesi, perché magari proprio nei propri paesi durante la crisi hanno trovato il lavoro che qui avevano perso, penso ai tanti che in quegli anni li hanno persi nell'edizia. Secondo i calcoli dell'INPS ci sono almeno 16 miliardi di contributi INPS che sono stati regalati al sistema della previdenza italiana. No, ripeti la cifra. 16 miliardi di euro, un punto di PIL. Un punto di PIL, lo dice l'INPS, cari ascoltatori, io vi prego di non prenderla né con Alessandro Barbera né con me, l'INPS lo certifica. Questi sono numeri, non c'è bisogno di essere a favore dell'immigrazione o contro, di sinistra o di destra, sostenitore di Renzi e di Salvini, questi sono numeri, i numeri dicono questo, e quindi su questo bisogna fare una riflessione molto seria. Il problema è che chi non ha potuto avere il rinnovo annuale del permesso, stante il fatto che siamo andati praticamente allo zeramento dei flussi di regolarizzazione annuale col decreto previsto dalle leggi che ci eravamo dati, riscivola nel lavoro nero. Il risultato è questo, secondo i calcoli, questi sia della CGIL che della CISL, oggi in Italia ci sono qualcosa come 500.000 di immigrati clandestini, in ogni caso immigrati che lavorano in che Italia, lavorano, esatto. Che lavorano in Italia senza pagare un euro di contributi allo Stato, quindi 500.000 persone che sono in molti casi probabilmente sfruttate, nella peggiore delle ipotesi, nella migliore delle ipotesi persone che non sono sfruttate ma che non pagano tasse per vivere in questo paese. E anche questa è una cosa che deve far riflettere quelli che sono contrari all'immigrazione. Esatto. Cioè alimentare, dire no, come fanno alcuni, no, non c'è posto per loro, quando, come dire, non abbiamo un muro attorno ai nostri 2.700 km di costa, non potendo, come dire, chiudere il confine con il Messico come fa Trump. Il risultato è che semplicemente queste persone in Italia ci arrivano comunque, lavorano, fanno dumping, perché sono persone che sì, in quel caso levano a prezzi più bassi e soprattutto non pagano alcun contributo allo Stato, né da un punto di vista fiscale né da un punto di vista contributivo. Io sposo questo. Non significa, cari ascoltatori, non avere strategie per scoraggiare il traffico di carne umana. Anzi, io mi chiedo come mai abbiamo dovuto aspettare il ministro Minniti, e io lo benedico, che ha finalmente messo i 60 capi tribù del sud della Libia per firmare quell'intesa. Per quello che può valere, dovevamo farlo 10 anni fa, 5 anni fa, quanto volete voi, ma intanto è la prima volta, ben venga. Non significa non scoraggiare il traffico di carne umana e il corridoio mediterraneo, significa però essere realisti sui numeri, che è un altro paio di maniche, mentre il dibattito, come sapete, cari ascoltatori, va su tutt'altro tipo di registro. Allora, grazie anche ad Alessandro Barbera. Sentiamo Riccardo da Brescia che ci fa una telefonata. Riccardo, prego. Buonasera Giannino, sono felice di parlare con lei. Si figuri. Vorrevo confermare una delle affermazioni che ho sentito nella sua trasmissione. Su cosa? Cioè gli immigrati in molti casi non rubano il lavoro a nessuno. E perché lo dice? Che argomento concreto ha? Ma però deve essere breve. Molto breve, dico, una struttura sociosanitaria, abbiamo molte difficoltà a trovare personale addetto all'assistenza delle persone anziane, e quei pochi che troviamo, in maggioranza, grande maggioranza, sono stranieri. Gli italiani non si rivolgono a questo tipo di lavoro, che invece offre grandi possibilità di è uno dei tre settori dell'occupazione più intensive di immigrati regolarizzati, esattamente questa dei servizi alla persona. Grazie anche a Riccardo Brescia, continuate tutti cari ascoltatori a ascoltare Radio 24, Focus Economia, e domani mattina alle 8:20 con me, naturalmente anche Cruciani, ovvio, non lo dico mai.